24. La storia. Cassino, 15 marzo 1944. Ad un mese di distanza dal bombardamento dell'abbazia, tutto sembra pronto per l'attacco decisivo alla milizia tedesca. Alle 8:30 del mattino gli aerei alleati cominciano a bombardare la città di Cassino. L'azione dura fino alle 12. 514 bombardieri sganciano 1.100 tonnellate di bombe sulla città. Contemporaneamente più di 500 aerei tra caccia e bombardieri attaccano obiettivi nelle immediate vicinanze. Gli alleati non incontrano resistenza da parte dell'aviazione e della controaerei tedesca. Dopo l'abbazia, anche la città di Cassino viene praticamente rasa al suolo. Si incrina così un altro mito, quello della guerra giusta, quello dell'alleato sempre amico e solo liberatore. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 è una storia diversa. È possibile che il liberatore si trasformi in nemico, in un altro tipo di nemico? Cosa c'è dietro la violenza della guerra? Quale linea separa la vittoria degli eserciti dalla sofferenza dei singoli? Che la guerra non sia solo uno scontro sul fronte tra eserciti in armi, ma che sia un mattatoio che coinvolge sempre di più civili inermi e indifesi, è stato dimostrato da troppi episodi della storia. Noi oggi vi raccontiamo una storia che ci riguarda, una storia di donne raccontata nel romanzo di Alberto Moravia, poi in un celebre film che vale all'Italia l'Oscar per la recitazione di Sophia Loren, La Ciociara. Quell'uomo terribile non era riuscito a fare quello che voleva, perché io avevo dato quella strizzata e lui mi aveva battuto la testa e io ero svenuta. E si sa che è difficile maneggiare una donna svenuta. Ma non mi aveva fatto niente. Anche perché, come ricostruì in seguito, i compagni l'avevano chiamato per tenere ferma Rosetta. E lui mi aveva lasciato. E c'era andato. E si era sfogato come tutti gli altri su di lei. Le marocchinate sono quelle migliaia di donne della Ciociaria stuprate e uccise dalle truppe marocchine nella primavera del 44. Una barbarie che la storia ufficiale non ha mai voluto raccontare. Ma che cosa è successo davvero in Ciociaria in quei giorni? Com'è stato possibile che gli alleati, cioè i liberatori, si trasformassero in carnefici, così efferati e crudeli? E perché la storia ufficiale ha taciuto? Per capire, per raccontare questa storia, dobbiamo ripartire da quella primavera, il 1944. È l'ultimo atto della battaglia di Cassino. La Valle del Liri è ancora scenario dove avvengono durissimi scontri fra l'esercito. La popolazione civile è schiacciata tra due fuochi. Il fuoco nemico, quello tedesco dell'invasore, e il fuoco degli alleati, i liberatori. Sono oltre 4 mesi che gli anglo-americani tentano con furiosi bombardamenti di sfondare la linea Gustav, 230 chilometri di barriera difensiva dal Tirreno all'Adriatico, voluta da Hitler per fermare l'avanzata alleata. La gente vive nel terrore di morire sotto le bombe, come testimoniano gli abitanti di Esperia in provincia di Frosinone. Diceva mio padre, nascondetevi, dice, perché tutti gli aerei che bombardavano. Noi siamo passati sopra i morti, perché la strada è piena di morti. Questa era la guerra dei carnefici, guerra che ammazzava tutta la popolazione. Le donne, i bambini, gli anziani abbandonano le proprie case, i propri paesi, si rifugiano in montagna, negli ovili, nelle capanne, nelle grotte. Eravamo tante, eravamo centinaia, tutte ficcate come gli vermi sotto terra. Non avevamo niente più. Se durava un'altra quindicina di giorni saremmo morti. Avete sentito gli abitanti di Esperia. È l'aprile del 44. Entrambi gli eserciti sospendono gli scontri. Per riprendere a combattere si attende la buona stagione. Anche per la popolazione che si è rifugiata in montagna è il tempo dell'attesa, come racconta Moravia nel suo romanzo. Tutti si aspettavano cose straordinarie da questi alleati, appunto come dai santi. E tutti erano sicuri che con il loro arrivo la vita non soltanto sarebbe tornata normale, ma anche molto migliore del normale. L'attesa che accomuna tutti gli italiani è che l'arrivo degli alleati coincida con la fine della guerra, quindi non tanto con la liberazione, ma perché la guerra è finita. La delusione è quando si scopre che la guerra non è finita. Avete sentito lo storico Giovanni De Luna? Infatti la guerra non è finita e i primi ad accorgersi sono proprio loro, gli alleati, che non riescono a spezzare la resistenza tedesca sulla linea Gustav, all'altezza di Cassino. Dopo una serie di sconfitte durissime in cui perdono più di 60.000 uomini, gli alleati decidono di cambiare strategia. Se non è possibile spugnare Cassino, allora si può perlomeno provare ad aggirarla passando attraverso i monti Aurunci. Ce ne parla lo storico Jean-Christophe Notin. Il generale Clark, che è a capo della quinta armata americana, si affida al generale Juin perché si rende conto che nella zona è più opportuno inviare truppe di montagna anziché divisioni corazzate, considerata la natura impervia del terreno da Napoli a Roma. Oltre 110.000 soldati francesi e truppe coloniali, marocchini, algerini, tunisini, sono gli uomini del CEF, il corpo di spedizione francese guidato dal generale Alphonse Juin, nato a Bona, in Algeria, 56 anni, orgoglioso delle proprie origini, comandante deciso e ostinato, ha i suoi ordini anche 12.000 goumiers, truppe militari marocchine arruolate e addestrate sulle montagne dell'Atlante in Marocco. E saranno proprio i goumiers, le truppe marocchine a seguito degli alleati, i protagonisti di questa nostra storia. Il piano del generale Alphonse Juin scatta alle 23 di giovedì 11 maggio del 44. 1.600 cannoni cominciano a bombardare le postazioni tedesche e 45 minuti dopo le truppe di Juin attaccano il Monte Faito, nel cuore dei Monti Aurunci. In un'intervista esclusiva concessa alla storica Daria Frezza, Ben Bella, l'ex presidente dell'Algeria, che nel 1944 era un ufficiale inquadrato nelle truppe del corpo di spedizione francese, ricorda così quei momenti. Quando gli altri, gli angloamericani, venivano respinti dai tedeschi e non riuscivano ad avanzare, noi arrivavamo e attaccavamo. Attaccavamo di notte. Eravamo truppe d'assalto. Non stavamo fermi in trincee. Abbiamo combattuto sempre. E a volte a 2000 metri di altitudine, nella neve, nel gelo. Io stesso ho rischiato di morire. La montagna era piena di corpi, c'erano tanti morti da tutte e due le parti. Eravamo in prima linea e i tedeschi erano di fronte a noi. Volevamo trasportare i nostri morti in un lenzuolo o sulle spalle, ma non potevamo. Sono i soldati del CEF, il corpo di spedizione francese, che aprono agli angloamericani la strada per arrivare a Roma. Così li descrive Silvio Palombo, abitante di Esperia. Portavano delle tuniche così, di tutti i colori. Portavano dei capelli lunghi, sporchi, in un modo che non sembrava nemmeno truppa, sembravano gente raccattata. Oggi su Mix 24 stiamo raccontando la storia delle marocchinate, donne vittime della brutalità e violenza delle truppe alleate coloniali francesi. Mix 24, la storia. Rieccoci su Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è una storia dimenticata, quella delle vittime delle truppe marocchine che grazie al loro coraggio riescono a sfondare la linea Gustav. Per le popolazioni di quelle zone, le popolazioni civili sembrano la fine di un incubo. L'invasore tedesco si è ritirato e ora si apre un futuro di speranza e libertà. Ma in realtà non è così. Le truppe coloniali, al seguito degli alleati, iniziano a saccheggiare, a rubare, a devastare, uccidere e violentare. Per quelle popolazioni civili, dunque, l'incubo è appena iniziato. Ce ne parlano gli abitanti di Esperia. Quando sono arrivati i marocchini, stiamo a fare la sfoglia, che dice che hanno arrivato alleati, noi siamo venuti i cani. Noi stavamo aspettando gli americani, la cioccolata. Dice, arrivati gli americani, tutto col fazzoletto, invece erano arrivati i diavoli. Mi ricordo che mi sono attaccata a mia madre. E allora essa ci hanno dato una scarpata in fronte, al momento l'ammazzavano. E a me mi hanno trascinata, botte pure, perché io non ci volevo andare. I marocchini mi hanno ammazzata, mi hanno portato via, mi hanno violentata, mi hanno scarnita tutto, mi faccio tutta sgrambiata. Quando mi è successa la disgrazia, no? Ci sono pure le cugine mie, là da gente, gli stanno a sparare. Perché volevano che non ci facevano quello che non hanno fatto, no? Tenevo 15-16 anni da lì. Le botte che mi hanno dato, forse era più morta che viva, non lo so come era. Stia pure mia madre diceva quello che deve fare mia figlia e le mie nipoti, fatecela a me. No. C'avevo 11 anni e mezzo. Pensavo di morire, sì, dico, mi ammazzano. Se mi ammazzavano forse era meglio che veniva via. Come Gesù Cristo quando li portavano, che le avevano fragellene, mi hanno fatto in quella maniera a me. Io mi stavo aspettando il colpo mio. Era ragazzina, però stavo aspettando il colpo mio, proprio mi credeva, ci credevamo che ci ammazzavano tutti quella sera. Quelle grida che ho sentito io in quella notte era un inferno dantesco. Sembravano delle belve che sbranavano gli animali in mezzo a quei boschi. Quella notte fu terribile. Sono i giorni degli stupri di massa. La violenza delle truppe di colore del corpo di spedizione francese travolge tutto e tutti. Il paese maggiormente colpito è Hesperia, 2500 abitanti. Il 17 maggio subisce l'attacco frontale della fanteria algerina e marocchina. I tedeschi cominciano a ritirarsi a nord, lasciando libera la strada per Roma. La popolazione resta in balia della furia incontrollata dei Goumier. Il sindaco del paese, Giovanni Moretti, in un convegno a Cassino il 12 novembre del 1946, leggerà in un suo intervento. Si contano 700 donne violentate, cioè la quasi totalità delle donne, tutte ammalate. E non vi dico di quale male. Molte morte, altre moribonde. Ai marocchini sono imputati gli stupri di massa, i saccheggi e a volte uccisioni di parenti o di chi si ribellava di fronte a questi stupri, come raccontano gli abitanti di Hesperia e Castro dei Volci. Io ebbi una sorella strupata, percossa, un fratello ammazzato. E scappavamo da tutte le parti perché poi erano armati e resistergli era pericoloso. Quando poi la mattina siamo arrivati là, subito, appena arrivati, prese la mia sorella che era piccola. Un colpo alla montagna, un vero padre per difendere la figlia, l'ammazzarono. Sono venuto due, uno è entrato dentro e l'altro è rimasto fuori. Mio padre, quando ha visto quello che è entrato dentro, e allora dice, mo, che succede? Ha cercato di entrare pure lui. Quello che stava fuori l'ha sparato. È morto subito. L'ha sparato e è caduto proprio così. A papà. Mia sorella si trovava dentro un ovile con altre donne. Lì era là dentro, per ripararsi, e invece loro entrarono in truppe, non so quanti erano, 4-5, non so quanti erano. Io vedo mia sorella che per le gambe c'aveva il sangue. Io disse a mamma, dice mamma che ha fatto Flaminia? È caduta. Violenza senza fine, documentata anche da lunghe relazioni dei carabinieri. Il 28 maggio 1944 il capitano Umberto Pittali scrive: caso particolarmente raccapricciante, quello di una ragazza di 12 anni presa da ben 12 marocchini. Il 90% delle persone che ha attraversato la zona di operazione delle truppe marocchine è stato derubato di ogni avere. Come anche molto alto è il numero delle donne violentate. All'interno di questa ondata di violenza che colpisce l'elemento femminile, c'è tuttavia un'altra forma di violenza ancora meno comprensibile, meno accettabile da parte della comunità. È la violenza perpetrata a danno di uomini e bambini, In un'altra nota del 28 maggio del 44, il capitano Umberto Pittali dichiara: notevole anche il numero di atti contro natura commessi a danno di uomini. Molti casi vengono taciuti. A Esperia nessuno è risparmiato, neppure il parroco del paese, don Alberto Terilli, come testimonia l'intervento in Parlamento della deputata Maria Maddalena Rossi del 7 aprile del 52. Perfino il parroco fu legato ad un albero e costretto ad assistere allo spettacolo. Poi anche di lui fu compiuto tale scempio che ne morì. Una violenza feroce, totale, assoluta, è la violenza del vincitore sui vinti inermi. Una violenza che è la stessa da sempre in tutte le epoche, in tutte le guerre. E allora lo stupro non è altro che la vendetta, l'intimidazione, un altro modo per prolungare l'orrore della battaglia. Ce ne parla lo storico Jean-Christophe Notin. La guerra in Italia dei soldati marocchini è come la guerra del 14-18, sotto la neve. 6 mesi di terribili battaglie, non dimentichiamolo. Combattimenti spaventosi in condizioni spaventose. L'esercito francese non aveva grandi mezzi e subisce moltissime perdite. Questo può aver spinto, aver eccitato, tra virgolette, i soldati marocchini. E ciò spiega le violenze, quelle che venivano chiamate danni collaterali. Secondo gli storici, anche le violenze e gli stupri dei soldati coloniali sono solo una delle tante facce dell'orrore della guerra. In un'intervista al quotidiano Il Mattino del 93, lo scrittore marocchino Tahar Ben Jallouh, a proposito dei Goumier, dice: era soprattutto gente che viveva sulle montagne. I francesi li rastrellarono, li caricarono sui camion con un'azione violenta di sopraffazione e li portarono a migliaia di chilometri da casa a compiere altre violenze. Le loro azioni brutali vanno inquadrate in questo contesto. In Marocco, ovviamente, sono gli eroi di Cassino. Un tale accanimento svolsero questo loro compito che da 12.000 uomini alla fine dell'operazione in loco si ridussero a 7.000, lasciando evidentemente sul territorio migliaia di morti e fornendo un contributo in vite altissimo a questa spedizione. Avete sentita la storica Silvana Casmirri, ma neanche il sacrificio dei Goumier può far dimenticare quei terribili giorni di sofferenza per le popolazioni civili della Ciociaria. Ma quante sono state realmente le marocchinate, le vittime di quell'orrore? E perché ancora oggi non è possibile stabilire un numero esatto? Ce ne parlano gli storici Jean-Christophe Notin e Giovanni De Luna. Il documento più importante che ho potuto trovare, assolutamente inedito, è quello relativo a una inchiesta condotta dal Tribunale Militare che ha censito tutti i casi accertati di stupro, i casi per i quali è stata avviata un'azione presso il Tribunale Militare. Secondo questo documento, sono stati giudicati circa 150 casi, 350 le persone coinvolte. Si oscilla tra un massimo di 60.000 e un minimo di 300. 300 sono i procedimenti aperti dalle autorità francesi nei confronti dei presunti autori degli stupri, 60.000 sono le richieste di risarcimento avanzate alla fine della guerra. Tutti gli stupri sono stati attribuiti ai marocchini, ma sono stati commessi dagli americani, dai tedeschi, dagli italiani, come purtroppo accade in tutte le guerre. 13 settembre 1944, pochi mesi dopo la liberazione di Roma e del Basso Lazio, la direzione della sanità pubblica scrive al Ministero dell'Interno. Penosa è la situazione in cui si vengono a trovare circa 1.100 donne della provincia di Frosinone e 2.000 della provincia di Littoria, che a seguito delle violenze subite dai marocchini sono state contagiate da affezioni veneree, oltre ad essere state rese per la maggior parte in stato interessante. Mi fermerei a una cifra indicata recentemente da uno studioso, Battistelli, a 3.500 stupri, che mi sembra un ordine di grandezza sufficientemente preciso. Tutto questo risulta tanto più drammatico in quanto il tutto avvenne in un arco di tempo estremamente compatto, dal 12-13 maggio al 27-28 maggio. Poi le truppe marocchine ripeteranno questa tragica esperienza anche a carico di altre popolazioni, nel Viterbese, in Toscana, ci sono testimonianze diffuse anche nella Val d'Orcia e via dicendo. Avete sentito gli storici Giovanni De Luna e Silvana Casmirri. Il 22 luglio 44, Monsignor Toccabelli, arcivescovo di Siena, dopo un colloquio con il comandante Joan, in una relazione scrive: le truppe marocchine hanno compiuto nella zona di Siena atrocità inaudite. Non v'è casolare che non abbia subito violenze carnali e depredazioni. All'ospedale di Siena si trovano ricoverate 24 bambine, dai 12 ai 14 anni. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Per le popolazioni civili liberate dagli alleati della Quinta Armata, la violenza delle truppe coloniali è uno shock inatteso e imprevisto. Il sogno di libertà in realtà si è trasformato in un incubo e quei giorni terribili cancellano persino il ricordo della brutalità dell'occupazione tedesca. Ce ne parlano gli abitanti della Ciociaria. Io fui fortunato perché a casa mia si installò un reparto, un autoreparto tedesco, e io feci amicizia con un graduato, e dato che lui non parlava italiano, io non parlavo tedesco, parlavamo in latino, praticamente ci esprimevamo in latino. Non abbiamo avuto torto nemmeno un capello, sono stati gentilissimi i tedeschi. I tedeschi ci hanno portato via capre, pecore, viveri, ma hanno rispettato le nostre donne, i nostri risparmi. I marocchini si sono precipitati su di noi come demoni scatenati. Ma com'è possibile che dei soldati comandati da ufficiali francesi abbiano potuto commettere delle simili atrocità contro i civili inermi? Com'è possibile che nessuno degli ufficiali abbia visto quello che stava capitando? E com'è possibile che nessuno degli ufficiali sia intervenuto a fermare quegli stupri di massa? Forse una risposta è in un misterioso proclama attribuito proprio al generale Alphonse Juin. Oltre quei monti, oltre quei nemici che stanotte ucciderete, c'è una terra larga e ricca di donne, di vino, di case. Se voi riuscirete a passare oltre quella linea senza lasciare vivo un solo nemico, il vostro generale vi promette, vi giura, vi proclama che quelle donne, quelle case, quel vino, tutto quello che troverete sarà vostro, a vostro piacimento e volontà, per 50 ore. E potrete avere tutto, fare tutto, prendere tutto, distruggere e portare via, se avrete vinto, se ve lo sarete meritato. Il vostro generale manterrà la promessa se voi obbedirete per l'ultima volta fino alla vittoria. Avete appena sentito uno stralcio del messaggio che il generale Juin avrebbe inviato alle sue truppe coloniali alla vigilia dell'attacco finale sui monti Aurunci. Si tratterebbe di un volantino scritto probabilmente in francese o in arabo, ma sulla cui autenticità non esiste alcuna prova storica certa. Quel proclama potrebbe anche non esserci mai stato. Forse quello che oggi viene attribuito a Juin sotto forma di proclama è solo una specie di carta bianca lasciata ai soldati coloniali prima del sacrificio finale, la promessa di un bottino di guerra da spartirsi dopo l'assalto. Ce ne parla lo storico Jean-Christophe Notin. Questa voce può essere stata messa in giro dagli italiani o dagli alleati, non ha importanza. Tutto quello che so è che è solo una leggenda, può avere un'origine qualsiasi. Non è credibile che il generale Juin, che era un uomo molto vicino, molto legato ai suoi soldati, che si preoccupava della sorte della gente del luogo e dei suoi uomini, non è assolutamente credibile che lui, proprio lui, abbia dato l'ordine a un esercito intero di mettere a ferro e fuoco un paese. Proclama, carta bianca o semplicemente complicità omertosa del comando, i cittadini vivono così l'arrivo delle truppe. Io ho visto che questi soldati si sono comportati come truppe di occupazione, liberi di fare quello che volevano. Hanno dato carta bianca, hanno fatto tutto quello che volevano e hanno passato. Il 28 maggio 44 il capitano Pittali in una nota scrive: appare chiaro che gli ufficiali francesi lasciano ai marocchini una discreta libertà di azione. Da qualcuno è stato anche detto che agli irregolari marocchini spetti il diritto di preda. Ma ci fu allora questa promessa da parte di Juin? Un generale alleato avrebbe promesso ai suoi soldati l'impunità per le violenze, i saccheggi e gli stupri? l'ex presidente algerino Ben Bella, nell'intervista esclusiva concessa alla storica Daria Fretz, racconta la sua verità ed è una verità scomoda. Per me la colpa non è assolutamente di Alphonse Juin. Al contrario, lo stimo, anche perché era un pied noir, un algerino. Penso che un ufficiale non avrebbe mai dato un ordine del genere al suo reggimento. La responsabilità è dei francesi. Ci sono stati degli ufficiali che hanno detto: avrete 48 ore di libertà, potete fare quello che volete. Ero lì quando ci hanno riuniti per dirci: avete carta bianca per 48 ore. Sono sicuro che l'ordine è venuto dagli alti vertici. Vi assicuro però che nel mio battaglione non ci sono stati casi di stupro. Questo non è mai accaduto. Dunque, secondo l'ex presidente algerino Ben Bella, la responsabilità di quell'orrore non sarebbe del generale Juin, ma addirittura degli alti vertici militari francesi. Ma è possibile veramente che sia andata così? Una risposta a questa domanda forse nei rapporti tra Italia e Francia degli anni della Seconda Guerra Mondiale. Nel 40 Mussolini rinnega il patto di non belligeranza stipulato con Parigi e invade la Francia. È quello che passa alla storia come una pugnalata alle spalle di Mussolini. E la memoria di quel tradimento resta viva nei francesi anche l'8 settembre, quando l'Italia e Francia si trovano fianco a fianco alleati contro i tedeschi. Una diffidenza, un odio che riverbera nelle parole anche dello stesso generale Juin in una lettera scritta il 24 maggio del 44 all'alto comando francese, subito dopo la violenza in Ciociaria. C'è sicuramente esagerazione, ma questi fatti rischiano di discreditare un esercito composto prevalentemente da elementi coloniali. Per quanto forti possano essere i nostri sentimenti nei riguardi di una nazione che odiosamente tradì la Francia, noi dobbiamo mantenere un'attitudine dignitosa. La pugnalata alle spalle del 10 giugno del 40, i mitragliamenti contro i civili in fuga nella valle della Loira. C'è un contenzioso da saldare che spinge i francesi alla vendetta. Secondo lo storico Jean-Christophe Notin e l'ex senatore del Partito Comunista Angelo Compagnoni. Penso che le truppe francesi che facevano parte del CEF, il corpo di spedizione francese, si siano prese una rivincita sugli italiani, è innegabile. Ma non significa che gli ufficiali francesi abbiano incitato le truppe di colore a commettere stupri in tutta Italia. Credo che probabilmente quando hanno portato i marocchini qui c'era anche in qualcuno almeno o in molti la voglia di una vendetta nei nostri confronti, di farcela pagare in qualche modo. Invano la popolazione supplicava gli ufficiali francesi per l'intervento. Essi rispondevano con una risatina e una smorfia ironica. Aggiungevano inoltre che gli italiani in Francia avevano fatto ugualmente. Avete sentito la relazione dell'ufficiale Amedeo Ferdinandi. Nel maggio 44 gli alleati sfondano la linea Gustav. Meno di un mese dopo, il 4 giugno, entrano a Roma. E poi, poche settimane più tardi, entrano a Siena. È l'ultima azione sul fronte italiano, a cui partecipano le truppe coloniali del generale Juin. A luglio, il generale e le sue truppe vengono trasferite in Provenza, nella Francia meridionale. Dietro di loro, in Ciociaria, lasciano povertà, disperazione, un segno di vergogna e tante malattie, come raccontano le abitanti. Mi sono dovuto curare perché... Come fai? Come facevi? Dico, devi stare tranquilla con quelle bestie, che erano bestie, mica persone normali. Le vecchie sono morte tutte quante. Non c'era una vecchia per vedere com'era. È morte tutte di malattie di marocchini. Dicevano, ecco l'avanzatura dei marocchini. Facevano bere neanche al pozzo, c'era il secchio con l'acqua. Non ci facevano manco bere. Ti pure schifavano una voglia a te quando qua siamo passati. Mi sognava. Sempre che mi stavano a prendere. Quando era più giovane sognava sempre, ma non tanto sanno più. Ma prima la paura, ancora non si trovava la paura attorno, no? Perché la vita non era legittima. Non era legittima la vita. Alla fine della guerra il comando francese concede un indennizzo di 50.000 lire. Per le donne violentate vi è inoltre la possibilità di ottenere una pensione come vittime civili della guerra, ma i tempi delle pratiche sono interminabili e viene vietato di cumulare l'indennizzo alla pensione. Per molte donne comincia un lungo calvario, la disperazione le porta ad organizzarsi. Per la prima volta in un convegno a Pontecorvo nell'ottobre del 51 denunciano la loro condizione di miseria e le violenze sessuali subite. Ce ne parla l'ex senatore del Partito Comunista, Angelo Compagnoni. La sala era già piena, dopodiché però continuarono ad arrivare altre donne, stavano strette come sardine, molte delle quali avevano ancora questi costumi molto colorati, quindi era un ambiente bellissimo anche, molto vivace, con molta rabbia, con molta passione e con molto impegno anche a volere uscire. E le donne parlarono al convegno e dissero quello che loro era accaduto e come erano state violentate. L'altra faccia degli stupri, l'altra faccia delle violenze subite dalle donne fu quella, l'occasione di un inedito protagonismo delle donne, nel senso che per la prima volta, sia rispetto al mercato del lavoro, sia rispetto alla capacità di garantire la sopravvivenza del proprio nucleo familiare, per le donne quella fu la prima volta in cui furono chiamate a operare in prima persona. Io direi che nella dimensione dello stupro alle donne ci sia questo mix, diciamo, di protagonismo e vittimismo, di questo mix di essere, come dire, al centro della storia ma continuando ad esserne vittime, e non si possono scindere i due elementi. A guerra finita nessuno si occuperà più di quelle donne. Le istituzioni sembrano essersi dimenticate dei giorni della vergogna e anche gli storici sembrano ignorare quella pagina della liberazione. Ci vorrà Alberto Moravia con la Ciociara per rinnovare la memoria di quella tragedia. Poi negli anni 60 seguirà un iter parlamentare per assegnare un risarcimento a quelle donne, che non approderà mai a un nulla di fatto. Molte di loro, ancora oggi, attendono una pensione di guerra. Solo nel 2004, nel 60° anniversario della campagna d'Italia, il Presidente della Repubblica di allora, Carlo Azeglio Ciampi, tributerà a quelle vittime innocenti un risarcimento morale troppo a lungo atteso. La memoria di quelle sofferenze, che nel dopoguerra solo un grande racconto e un grande film hanno avuto il coraggio di raccontare, è una delle motivazioni di fondo della volontà di riscatto del dopoguerra. Nessuno potrà mai perdonare le violenze inflitte alle donne, ai bimbi, agli anziani, ad Esperia e in tanti altri paesi. Ancora oggi la memoria di quei fatti è essenziale per noi, per i nostri figli. Sono il presidente dell'associazione dei reduci marocchini che hanno combattuto sul fronte italiano, inquadrati nel CEF, il corpo di spedizione francese. Io non ho combattuto in quella guerra, sono un figlio. Ma sento il dovere morale di chiedere scusa alle vittime civili per le violenze che hanno subito da parte delle truppe marocchine sotto il comando francese. Naturalmente so che le mie scuse hanno soltanto un valore simbolico e non potranno mai risarcire le sofferenze di quegli uomini e di quelle donne. Avete sentito il presidente dell'associazione dei reduci marocchini, Hamid Ben Rallate. 1945, il Tribunale Militare di Norimberga ignora lo stupro e l'abuso sessuale. 1949, la Quarta Convenzione di Ginevra include la prima norma internazionale contro la pratica dello stupro. 1993-1994, gli statuti del Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia e per il Ruanda menzionano per la prima volta lo stupro nei crimini contro l'umanità. 22 febbraio 2001, il Tribunale Penale per la ex Jugoslavia, in una sentenza storica, condanna 3 miliziani serbo-bosniaci per lo stupro e la riduzione alla schiavitù sessuale di donne bosniache. Il capo di accusa, per la prima volta, viene considerato un crimine contro l'umanità. Thank you. 24, la storia. Marina Liuzzi, autrice di questa puntata sulle donne in ciociaria, com'è nata l'idea? L'idea è nata durante una chiacchierata con una delle autrici del programma, della storia Siamo Noi, Daniela Ghezzi. Tutto però è partito da una riflessione, era il 2004, fino a quel momento, a parte il cinema con la ciociara di De Sica, poi insomma, la letteratura con il libro di Moravia, quella pagina così dolorosa della nostra storia, appunto gli stupri in ciociaria, era stata una pagina oscurata, dimenticata dagli storici e negata. Allora ci siamo dette, è una storia che vale la pena raccontare, perché la rosetta di Moravia della ciociara esiste, bisogna andare però a cercarla, e quasi nessuna delle donne ciociare vittime insomma degli stupri dei soldati alleati, appunto del Maghreb, aveva mai raccontato davanti alla telecamera la propria esperienza drammatica vissuta da ragazzina, da poco più che bambina, e quindi per me è stata anche un po' una sfida, cioè vado a cercarle queste donne a 60 anni di distanza dall'accadimento dei fatti, era il 2000. Ho pensato a ricostruire la loro vicenda umana, ma anche storica, quindi con documenti inediti, filmati e poi le testimonianze anche preziose come quella appunto di Bembellà. C'era anche una cosa che mi affascinava molto, del tema della violenza in guerra, cioè la guerra, ed è stato anche affrontato nel documentario, la guerra contempla tutto, lo stupro, le torture, non c'è più alcun limite, e a me interessava proprio l'altra faccia, no, della guerra, quella al femminile, di quando appunto la donna diventa bottino di guerra, lo stupro proprio come atto sistematico. Da sempre in tutte le parti del mondo l'abbiamo visto, da Nanchino alla ex Jugoslavia, Ruanda, la Siria di oggi. Sì, certo, si porta via tutto. Qual è stata la maggiore difficoltà nell'affrontare questa ricerca, questo lavoro sulle donne? Più difficoltà, innanzitutto un lavoro di studio, di ricerca lungo, approfondito, riferimento dei documenti, per lo più inediti, mai pubblicati alcuni prima, sia qui nell'archivio di Stato in Italia che negli archivi francesi, non è stato facile. In Francia com'è andata? Soprattutto in Francia, dove c'era anche molta resistenza a far luce su tutta la questione, proprio dal punto di vista delle responsabilità storiche. Poi ho trovato, poi c'è anche da dire questo, la difficoltà a trovare un punto di equilibrio proprio tra il racconto, cioè la realtà storica, no, degli stupri di massa, e il ruolo dei soldati marocchini, per evitare di cadere nell'equazione semplicistica marocchino uguale stupratore. Quello veramente insomma è stato difficile da un lato, e dall'altro la ricerca delle donne in ciociaria, le cercate nelle campagne, nel Frusinate, appunto tra Ceccano e Speria, i paesi più colpiti, no? E si trattava poi di donne tra i 70 e gli 80 anni, di contadine che vivevano ancora nelle loro case in campagna, non è stato facile cercare. E poi hanno avuto difficoltà, immagino, a parlare. Una volta trovate, la difficoltà con loro poi era superare la barriera della diffidenza, innanzitutto. Lì devo dire però molto ha contato la credibilità del programma. Poi ho installato a poco con loro un rapporto, proprio insomma con loro un rapporto, si sono fidate, alcune ho dovuto incontrarle più volte, ho passato ore e ore a parlare con loro, a farmi raccontare la vita, l'infanzia sotto le bombe, le violenze subite, insomma hanno pianto alcune, sembra una sorta di confessione, e solo tre di loro alla fine hanno accettato di farsi intervistare. Su quante? Guarda, ne avrò sentite almeno 9-10. Ricordo ancora che una di loro era la prima volta che parlava apertamente, senza mezze parole, della violenza subita. Lei aveva 11 anni, pensa, e ne parlava davanti a sua figlia, davanti a sua nipote, giovane, poco più che ventenne, ed è stata proprio la nipote, me lo ricordo, a convincerla, è stata lei, la nipote, che ha detto: nonna, fallo per me, per non dimenticare, perché è una testimonianza importante la tua. E tra quelle che non hanno parlato? Ne ricordo una in particolare che poi non mi ha concesso l'intervista. A un certo punto si è scoperta, ha tirato sui vestiti, mi ha fatto vedere una grande cicatrice sulla pancia, e lì è stato terribile. Cosa ti ha insegnato questo lavoro, su questa storia? Proprio questo, guarda, la cosa che mi ha più colpito di quelle donne, che poi mi è rimasta dentro anche a distanza di tanto tempo, di tanti anni, è stato il loro coraggio, innanzitutto proprio il coraggio di vivere nonostante tutto, i pregiudizi, la vergogna, poi il coraggio di raccontare, certo. e la sensibilità di persone umili che hanno compreso invece la valenza, il valore della testimonianza, no? in un documentario. E poi guarda il pudore con cui hanno raccontato ciò che nessuna donna vorrebbe mai vivere. Ma oggi si è arrivati a capire se ci sia stato un ordine preciso dei battaglioni delle truppe marocchine o degli alti ufficiali francesi? Guarda, un ordine preciso è difficile dirlo, anche gli storici hanno posizioni contrastanti. Resta comunque la valenza delle testimonianze, abbiamo visto i documenti, Bembella racconta la sua verità, dice no, a un certo punto la responsabilità è degli alti vertici francesi. Detto questo, io resta, credo ancora, quella degli stupri in Ciociaria una ferita aperta, che in parte però, come abbiamo anche sentito, no, la più alta carica dello Stato ha cercato di sanare nel 2004, sì, consegnando appunto la medaglia d'oro proprio alla città di Esperia. Bene, grazie per questa testimonianza, Marina. Grazie a te. Tutte le puntate di Mix 24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.